24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Asse Monti Holland sull'euro, adottare subito le misure europee. Tour del premier italiano nel vecchio continente, prima a Parigi, poi a Helsinki e Madrid. Holland chiede ancora l'attuazione delle decisioni del summit di giugno. A dicembre, vertice bilaterale italo-francese a Lione. La Germania boccia l'idea di concedere una licenza bancaria al fondo di salvataggio ISM. Le borse accusano il colpo, Madrid e Milano chiudono in ribasso. Domani il direttorio della BCE, oggi le decisioni della Federal Reserve americana. Industria della sicurezza, la Commissione europea adotta il primo piano d'azione per il settore. Crisi in Siria, la Commissione sollecita tregue per soccorrere feriti e civili. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. È partita dall'Eliseo la tournée europea di Mario Monti, che oggi sarà a Helsinki e domani a Madrid. Il premier italiano, accompagnato dal ministro dell'economia Vittorio Grilli e da quello delle politiche europee Enzo Moavero, ha avuto un lungo colloquio con il presidente francese François Hollande. Piena convergenza tra i due, con Hollande che è tornato a chiedere l'attuazione delle decisioni del summit europeo di fine giugno. Inoltre, a inizio dicembre, ci sarà un vertice bilaterale italo-francese a Lione. Un richiamo all'azione e un tocco di ottimismo. La prima tappa del tour del premier Mario Monti nelle capitali europee si chiude con l'invito, ripetuto fino all'ossessione, ad attuare rapidamente le decisioni prese all'ultimo Consiglio europeo. Monti e il presidente francese François Hollande riaffermano la volontà di impegnarsi e fare tutto il possibile affinché le decisioni del summit vengano applicate e la zona euro sia difesa, preservata, consolidata. Così i due leader al termine dell'incontro, nel quale Monti ha ribadito il concetto già espresso in mattinata: Italia ed Europa sono vicine alla fine del tunnel. Condivido parola per parola quello che ha detto il presidente Hollande circa il graduale schiarirsi delle prospettive di stabilità dell'eurozona. Intanto, mentre l'alleanza franco-italo-spagnola, che fa perno sulla BCE, continua a tessere la rete a protezione dell'euro, la Germania torna a frenare su uno degli aspetti più controversi tra le misure ora allo studio, quello della licenza bancaria al fondo salva stati permanente. Non c'è alcun bisogno di concedere una licenza al fondo ISM, le cui regole non prevedono la possibilità di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea, così il Ministero delle Finanze di Berlino. Monti, che nel discorso a Parigi ha volutamente coinvolto la cancelliera Angela Merkel parlando delle prossime mosse comuni, affronta domani la tana del lupo finlandese tra i massimi difensori del rigore di bilancio e giovedì tocca alla BCE fare la mossa decisiva. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di partire per Parigi, il premier si è detto ottimista su Italia ed Europa. Noi e l'Unione siamo alla fine del tunnel, ha detto Monti. La fine del tunnel sta cominciando a illuminarsi e noi e il resto d'Europa ci stiamo avvicinando alla fine del tunnel. Sono state molto importanti le decisioni che abbiamo preso a 17 e a 27 nel Consiglio europeo del 28-29 giugno. Abbiamo impiegato un giorno e una notte, ma sono state proficue e adesso ne stiamo vedendo le conseguenze in termini di maggiore disponibilità sia delle istituzioni europee sia dei singoli governi. La Bundesbank richiama Mario Draghi e la Banca Centrale Europea. La politica monetaria, ha reso noto una fonte della Banca Centrale tedesca, deve restare focalizzata sulla stabilità dei prezzi e i problemi di bilancio degli Stati dovrebbero essere risolti attraverso le politiche di bilancio o il ricorso al fondo di salvataggio europeo. Le borse hanno scontato l'atteggiamento tedesco. Londra è scesa dell'1,02%, Madrid ha perso lo 0,94%, seguita da Parigi meno 0,87%. A Milano il FTSE MIB ha ceduto lo 0,62%, mentre Francoforte ha chiuso sulla parità, meno 0,03%. Lo spread BTP Bund ha chiuso a 480 punti base. I mercati sono in attesa del direttorio di domani della Banca Centrale Europea, mentre oggi arriveranno le decisioni della Federal Reserve americana. Chiusura contrastata per le borse europee nell'attesa delle mosse della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Intanto il presidente francese François Hollande e il premier italiano Mario Monti hanno auspicato che siano attuati più rapidamente possibile i dispositivi indicati dal Consiglio europeo dello scorso 28 e 29 giugno, qualora sia necessario. Milano ha terminato in ribasso dello 0,62%, mentre Francoforte ha chiuso invariato. sbagliata. A Piazza Affari sono scivolate di oltre il 4% le Fiat nel giorno della diffusione della semestrale giudicata deludente dagli analisti, con i conti dell'azienda italiana senza la partecipazione in Chrysler passati in rosso per oltre 500 milioni di euro. L'azienda USA però ha consentito al gruppo torinese di registrare un utile netto di 737 milioni. La nuova impennata dello spread, balzato a 480 punti, ha fatto scivolare le quotazioni dei primi tre istituti bancari italiani, ovvero Intesa San Paolo, Unicredit ed MPS. Per contro, Diasorin, più 1,4%, è stata premiata per la joint venture creata con un'azienda indiana nel settore dell'immunodiagnostica. L'attesa per i conti semestrali diffusi a borsa chiusa ha spinto all'insù le Parmalat, mentre ha fatto perdere quota le Finmeccanica, meno 2,3%. Fuori dal paniere principale, l'attuazione del programma di riduzione dei costi confermato dai vertici della società ha favorito gli ordini in acquisto sui talcementi, che così è salita del 3%. Sul fronte dei cambi, infine, l'euro ha riconquistato quota 1,23 dollari. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24. A certificare le difficoltà dell'Europa sono arrivati i numeri sulla disoccupazione. Difficile davvero mandare giù questi numeri. A giugno il tasso di disoccupazione è al 10,8%, in rialzo da maggio e soprattutto in forte aumento rispetto allo scorso anno. Il numero di coloro che sono in cerca di un lavoro sfiora i 2,8 milioni. Rispetto a un anno fa, l'incremento fa venire i brividi e interessa uomini e donne senza troppe distinzioni. In lieve diminuzione invece il tasso di disoccupazione giovanile, al 34,3%. I dati italiani si accompagnano a quelli europei, che risultano altrettanto indigesti. Nell'area euro la disoccupazione continua a peggiorare. A giugno si sono contati 123.000 disoccupati in più, un aumento di oltre 2 milioni in un anno. In un'Europa che combatte da mesi contro la crisi dei debiti pubblici, anche attraverso pesanti e dolorosi tagli, la crescente disoccupazione si conferma come uno dei nodi più difficili da risolvere. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Finora non ho visto niente in contrasto con le regole europee, così il vicepresidente della Commissione responsabile all'industria, Antonio Tajani, in merito alla polemica sulle politiche del settore auto scatenata dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, sugli sconti praticati dalla Volkswagen. La Commissione europea ha adottato il primo piano di azione europeo per il settore dell'industria e della sicurezza. L'obiettivo è di arrivare a un mercato unico per le tecnologie del settore, in modo da rafforzarne la competitività sul mercato globale e contribuire al rilancio di crescita e occupazione. Il mercato ha infatti un valore stimato tra i 26 e i 36,5 miliardi di euro e circa 180.000 dipendenti. Sto bene, non vi preoccupate, è il testo di un SMS che la fidanzata di Alessandro Spadotto, il carabiniere italiano di San Vito a Tagliamento in provincia di Pordenone, rapito nello Yemen, ha ricevuto dal telefono del militare. Il rapimento di Spadotto è intervenuto il ministro degli esteri, Giulio Terzi. Io confido molto sull'aiuto che ci possono dare le autorità di sicurezza yemenite, oltre che all'intervento nostro e alla presenza dei nostri organismi. Sì. Il ministro Al-Kirbi, ministro degli esteri yemenita, mi ha dato forti assicurazioni, una persona di grande affidabilità. Lo Yemen da un anno e mezzo a questa parte ha cambiato un po' il suo modo di operare, è diventato un paese credibile nella lotta al terrorismo. Faremo di tutto per portarlo a casa molto rapidamente. Infine la crisi in Siria. La Commissione europea ha sollecitato tregue nei combattimenti in atto per consentire di soccorrere feriti e civili, denunciando come il paese sia sul punto di precipitare in una tragedia umanitaria che ricorda i drammi di terribile memoria dell'ex Jugoslavia. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Kristalina Georgieva. Il commento di Alberto Negri, intervenuto a Nessun Luogo è Lontano. La Francia è nettamente coinvolta in questa vicenda siriana sin dal primo momento, perché è favorevole a una defenestrazione di Assad per vari motivi. Non trascurabile il fatto che Assad alla fine, nonostante l'amicizia personale che aveva in precedenza con Chirac, ma anche i buoni rapporti iniziali con Sarkozy, abbia poi rifiutato in qualche modo le offerte francesi, ma anche quelle arabe, perché vedete, Assad hanno cercato di comprarselo. L'anno scorso hanno mandato il ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti offrendogli 3 anni di bilancio se avesse rotto l'alleanza con l'Iran, e in compenso avrebbero fatto finire in pochi giorni tutta la guerriglia della Siria, perché questo è il cuore del problema. Il difetto di Assad è quello di essere presidente di un paese dove il Golan è occupato da Israele nel 67. la Siria ha sempre sostenuto i movimenti palestinesi, non si è mai piegata in realtà a una politica filo occidentale, e quindi con le sue alleanze e tra l'altro con il sostegno agli Hezbollah, che nel 2006 ha rifornito di missili per contrastare Israele, ha decretato la propria condanna nel campo occidentale. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Daniele Teruzzi, regia tecnica, e da Paolo Pancena in studio. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.